Gira, gira e fai la rota e non falla mai fermare. Quando al mattino Roma si è svegliata, pare un pavone quando fa la rota. Sembra una pennellata fatta da arcobaleno, pure si piove pare che è sereno. Gira, gira e fai la rota, non te devi mai stanca. Gira, gira e fai la rota e non falla mai ferma. Te voglio bene e ancora non lo sai, ma guarda bene dentro agli occhi miei, così ce leggerai una lettera d'amore che ho scritto e sigillata in fondo al cuore. Gira, gira e fai la rota, non te devi mai stanca. Gira, gira e fai la rota e non falla mai ferma. Io c'ho un amore che non ha mai fine, non è geloso e non mi dà le pene. C'ha terre e c'ha colline, è ricco dei tesori, e Roma mia era più grande dell'amore. Gira, gira e fai la rota, non te devi mai stanca. Gira, gira e fai la rota e non falla mai fa.